grazie a Castelnuovo che ci ha dato, mi pare, la ricostruzione dello svolgimento di uno dei pochi, diciamo, se si può dire, che possiamo vantare in area italiana accanto ad altre forme di sviluppo che in effetti ha proposto dei tipi e delle figure di discorso che non sono inconsuete nella letteratura lingua tedesca sulle volontà principali, che ho aperto poi anche le mie. Io direi possiamo interrompere qui un quarto d'ora diciamo di intervallo e poi cominciamo con la discussione. Nein, versucht noch eine Zusammenfassung. Die Ausführung war etwas rascher als das. Also in Savoyen ist es zwischen 1200 und 1300 tatsächlich zur Ausbildung eines Landes, eines weltlichen Fürstentums gekommen, ausgehend von der Situation der verschiedenen Zersplitterung. Es sind vor allem drei Elemente herausgearbeitet worden, die dazu beigetragen haben, dass dieses Land entsteht und sich dann auch sehr stark konsolidiert. Einmal der Aufbau einer Verwaltung durch den Landesfürsten, eine Verwaltung, die sehr stark differenziert wird und sehr effizient wird. Dann eine gezielte Siedlungspolitik bzw. die Anlage von neuen Burgen und von entsprechend immer neuen Siedlungen. Und schließlich, dass der Graf erfolgreich versucht, eben als Graf in allen möglichen Angelegenheiten seine oberste Autorität in Anspruch zu nehmen. Dabei ist ein Element wichtig, worauf Schneider kann auch sagen, nämlich der Schutz von der Kaufleuten oder von der Bürger. Am Ende des 13. Jahrhunderts und Beginn des 14. Jahrhunderts präsentiert sich dann Savoy als ein konsolidiertes Land, Staatsraum wohl vermeiden im Zusammenhang mit klaren Grenzen etwa in allen Richtungen. Der weitere Ausbau betrifft vor allem die Verwaltung. Die Verwaltung ist das Element zur Konsolidierung, wobei auch diese Verwaltung nicht zu einer Vereinheitlichung im strengen Sinn führt, sondern die Verwaltung orientiert sich immer noch an älteren, gewachsenen Einheiten. Der historisch begründete Partikularismus auf das Land, das Savoy ist nicht einheitlich stammt, sondern nur auf älteren Einheiten, dieser historisch begründete Partikularismus wird aber durch eine sehr erfolgreiche Koordination überwunden. Eine Einheitlichkeit ist aber auch im 15. Jahrhundert noch nicht hergestellt, sondern immer noch beruft man sich auf die Rechte in diesem oder jenem oder in anderen Bereichen. Aus dem wächst das Ganze dann zusammen. Possiamo riprendere e cominciare con la discussione. Ci sono quindi domande, considerazioni. Professor Violante. Farò prima una breve aggiunta a quello che precedentemente ha detto la Marotano, poi di conseguenza di parola una domanda. Studiando la signoria rurale, anche in Italia, in parte meridionale di Spagna, in rurale mediterraneo, anche nella sua fase di signoria territoriale e anche la signoria meridionale, ho notato che i primi accenni, diciamo, di cultus castri sono molto antichi, quasi da benignario, primi, agitori, provengono però da documenti della Chiesa di Aquisgrana, che sono tutte delle copie del secolo X-III. E eliminando questi documenti della Chiesa di Israele, così tardi, dobbiamo arrivare al secolo VI. E non vediamo nemmeno che il centro di questo circuitus signorile è il secolo, bensì la cultus mundus. Io ho ritenuto di dovere escludere dalla considerazione questi documenti riguardo le signorie del lo assicuro di aver fatto bene a non considerare tutti i documenti per il secolo decimo, ma mi domando se queste falsificazioni che riportano una realtà al secolo decimo non riportano invece, non rispecchio invece una realtà nel tempo in cui la falsificazione era fatta, cioè del terzo secolo, che si intendeva così giustificare. E allora Morosano ha detto che non esistono le signorie territoriali, perché erano vari territoriali estrensi prima del XIII secolo. Che nel XIII secolo si comincia a vedere qualcosa, allora vorrei dire che uno degli strumenti per imporre la sua signoria, il suo principato sul territorio da parte del patriarcato di Aquileia era anche quello di creare per sé tre proprie signorie, piccole signorie territoriali, del patriarcato. Diciamo, pensato, può darsi, non può darsi soprattutto perché nel 200 cominciano alcuni signori anche là, cioè soprattutto ai confini del patriarcato, a tentare di creare delle signorie di questo tipo. E allora questa forse è un'ipotesi che alcuni aquilesi, maestro tra l'altro, questo va detto, di falsificazione documentaria, cioè scende la nozze, e abbiano tentato questa via. È probabile, cioè non è necessario pensarlo solo perché comunque il patriarca di Aquileia era ormai un signore territoriale di vasta scala, di scala regionale, quindi però non è escluso per fare armi per contrastare queste, diciamo così, questo progresso signorile ci fosse anche questo. Non è escluso, io però non ho studiato questo aspetto, questo ci riprenderà alla luce di questa sua suggerimento. Grazie. Altre domande? Prego. Posso poche cose perché il professor Canaldana si chiama di forse se viene in un posto raggiungibile con il microfono che sembra il sì. Solo alcune cose sulla nobiltà trentina che sto studiando adesso. E, vabbè, non sarà chiaro come risultano queste opere perché sono soltanto all'inizio della ricerca. Ecco, sicuramente l'emergenza dell'aristocrazia trentina si colloca, come ha detto il professor Canalgiano, a metà del XIX secolo e prima non ci sono notizie rilevanti. Questo sia perché la documentazione non esiste in questo periodo, ma per l'idea che mi sono fatto, anche perché probabilmente prima di questa data non ci sono gli elementi per permettere a questa restaurazione di emergere all'interno del territorio. Per quel che riguarda la politica di difesa del territorio questo concetto di chiusura nell'ambito dello schema orientale rispetto a quello occidentale, e mi sembra che sia comprovato dal comportamento delle famiglie che portano un titolo comitale, che secondo me sono un caso abbastanza interessante perché riguarda il periodo delle origini della Superzia Trentina. Dovrebbero essere famiglie che in teoria hanno un grado di radicamento che è precedente rispetto a quello dell'aristocrazia, diciamo, minore, cioè dell'aristocrazia che ha un più diretto legame col vescovo, cioè questa aristocrazia che sorge a metà del XIX secolo dal rapporto diretto col vescovo, cioè dalla concessione di territori o di castelli con legame feudale. E questi conti dovrebbero invece avere un grado appunto di radicamento territoriale precedente Però ciò non toglie che essi si affermino nello stesso periodo o poco prima delle famiglie dell'aristocrazia più direttamente legata al vescovo, cioè l'aristocrazia feudale. Non solo, ma il loro ulteriore radicamento, che si può seguire attraverso una certa variazione del sistema delle denominazioni, avviene nel momento in cui il vescovo decide eventuali riduzioni del loro territorio. Per esempio, i conti di Bolzano diventano conti di Bolzano alla fine del X secolo, nel XII secolo diventano conti di Appiano, in quanto c'è una riduzione del territorio sul quale possono esercitare poteri di controllo che devono ancora essere definiti, non sapevo come indicare. Quindi diciamo che questo comportamento comprovi un principio di chiusura del territorio, non di difesa delle prerogative del territorio, non tanto degli spazi. E poi c'è il problema della ministerialità, cui il professor Camarlano accennava come mezzo per raggiungere una posizione sociale e di potere anche di un certo livello. E per quel che ho visto finora è molto difficile chiarire la posizione della ministerialità nel Principato di Trento. Normalmente si dice che la Casa dei Santi Vigili è la sua associazione che raggruppa tutti i vassalli del principe vescovo. Però nella documentazione la posizione dei singoli vassalli all'interno della Casa Dei non è sempre specificata. E soprattutto se si cerca un parallelo con un caso che è meglio studiato, come quello della ministerialità del Principato di Bressano, nel Principato di Bressano noi sappiamo che esiste una ministerialità servile, una ministerialità invece che ha una posizione socialmente molto più elevata e che è paragonabile alla vassalità libera. Questo nel Principato di Trento diventa difficilissimo determinare. Cioè, ci sono famiglie che fanno parte della Casa dei Santi Vigili, però non si sa se siano di origine servile e poi abbiano raggiunto posizioni sociali particolarmente elevate, per cui la loro posizione appunto è assimilabile a quella della vassalità libera, se siano invece famiglie entrate da una condizione di libertà all'interno della vassalità perché appunto serviva loro per raggiungere una posizione socialmente elevata, oppure se non facciano nemmeno parte della Casa dei Santi Vicini. Quindi ecco, questo è un problema piuttosto grosso per me, perché è ovvio che la ministerialità è importante, però non so fino a che punto lo sia nel Principato di Trento. Poi, per quel che riguarda la rapacità dei conti del Tirolo, c'è il professore Luna che sa tutto. Grazie. Ci sono... Come spese si riesce a capire qualcosa circa la violazione del potere di finanza sa Paolo, se esistono e se ne può parlare anche di altri territori sull'articolazione delle finanze, non del prelievo fiscale. Non è che ne sappia tantissimo, anche perché è stato studiato pochissimo, soprattutto negli ultimi decenni e dopo la metà del decennio. Quello che si può dire è che non sembra esserci un'unità di età, almeno nella struttura dell'amministrazione finanziaria. Ossia, esiste una tesoreria a partire dal 1700 con un tesoriere. Tuttavia non è unica a livello centrale, non è l'unica forma di coordinamento delle finanze. perché questa tesoreria è pura testa, una tesoreria che copre tutti i territori sociali, da un lato è in competizione con delle tesorerie personali del principe, dell'hotel del principe, dell'hotel della principessa, di quei dei figli, e al contempo anche con delle tesorerie regionali in alcune situazioni specifiche, che sono poi più l'espansione della contea va avanti, più numerose diventa. In Piemonte, a Nizza, si sente adesso. Sono sovranie regionali. Allora c'è aspetto proprio. Per esempio c'è una spina, non credo sia successo. Cercando di parlare più. C'è altro. E c'era. Allora, io mi sento che parlo poco. Le tesorerie regionali diventano sempre più importanti, più grande diventa lo spazio controllato dai sovrani. Al contempo, a livello locale, dovrebbero essere i castellani i primi a in qualche modo prendere le finanze o controllare le finanze locali. Tuttavia c'è una importante parte delle finanze che viene delegata in Piemonte a comunità urbane, in Svizzera e in altre coste a comunità di borghi, e poi vi è un'unitarietà soltanto a partire dalla fine del 300 nella revisione dei conti di castellania, cioè nel controllo di come vengono spese le finanze, di come funziona la fiscalità dopo la Costituzione e l'ordinamento preciso della Corte dei Conti nel 1389. E lì si vede bene che se precedentemente esisteva già una sorta di Corte dei Conti, i personaggi che rivedevano i vari conti di Castellania erano soltanto scelti all'interno dell'entourage del principe, erano tra i suoi consiglieri, non avevano una professionalità specifica. Un anno facevano una revisione dei conti, poi avevano all'interno dell'amministrazione altri ruoli, mentre invece dalla fine del 300 si vede chiaramente che emette una professionalità nel controllo della fiscalità, ed è una professionalità tra l'altro collegata a una specializzazione esterna al servizio del conto, perché sono chi fa parte della Corte dei Conti proviene da famiglie importanti urbane con capacità finanziarie, e quindi questo aumenta anche le possibilità di ascesa sociale all'interno della contea. Però questo non risponde del tutto alla domanda, se non mi prendo. Grazie, se mai riprendiamo questo problema dell'organizzazione comunitaria. Prego. Aus beiden Vorträgen geht wohl hervor, dass die Verhältnisse in den Westalpen denen den Herrschaftsbildungen nördlich der Alpen am nächsten kommen. Das heißt also die Grafschaften Montferrat und Savoyen, deren Entwicklung entspricht wohl am ehesten den Verhältnissen, die wir bei den größeren und mittelgroßen Territorien nördlich der Alpen vorfinden. Das heißt, eine Grafenfamilie besitzt sozusagen punktuelle Kerne, Besitzkerne, die sie denn von denen aus sie allmählich ihren Besitz und ihre Herrschaft flächenmäßig ausbaut und wie gezeigt worden ist, zum Teil durch Errichtung einer Verwaltungsorganisation, einer landesfürstlichen Verwaltungsorganisation und dann zum anderen durch Ausweitung von Schutzherrschaften, um es mal allgemein auszudrücken. Meine Frage ist nun, bei dieser Lokalorganisation oder Verwaltungsorganisation und diesen Schutzherrschaften, welche Rolle spielt da die Gerichtsorganisation, die Gerichtsbarkeit, die ja sozusagen auch für deutsche Verhältnisse gesehen sozusagen die Basis der Verwaltungsorganisation ist. Wie sieht dies in Savoyen, wie sieht dies in Montferrat aus? In Savoia a livello locale l'amministrazione è contemporaneamente nelle stesse persone di Castellano, l'amministrazione finanziaria, della giustizia e anche fiscale. Il funzionamento dell'amministrazione della giustizia è molto, nel senso che i castellani controllano parte della giustizia locale, poi a seconda delle varie regioni, dei vari particolarismi in cui è divisa la contea di Savoia, vi è un giudice legato al Valigo, un grande giudice regionale che dovrebbe controllare il primo grado di giustizia. Nelle regioni di diritto consuetudinario, come il Vaud o la Val d'Aosta, questo non avviene. E per esempio la giustizia viene controllata. E dai consiglieri delle borgate, dei cittadini bodisi. Poi esiste un consiglio, esistono consigli territoriali che questi sono molto importanti per la creazione di un'amministrazione centralizzata, che funzionano davvero come corti di giustizia, a livello sempre più territoriale, che sono il Consiglio di Chambéry e poi, dall'inizio del 400, quello di Torino. Tuttavia, esiste al contempo, pur sempre che parlo adesso della situazione dalla metà del 300 in poi, un consiglio presso il principe che ha funzioni legislative e diplomatiche, ma anche funzioni di suprema corte di giustizia, e che quindi si sovrappone, si giustappone spesso alle corti territoriali, che sono in quei consigli di Chambéry e di Torino. Quanto all'importanza dell'amministrazione della giustizia nel più ampio quadro dell'amministrazione generale, io forse posso avere qualche tendenza a sminuirla, tuttavia mi sembra che questa compresenza a livello proprio di comunità locale, di amministratori sul territorio castellano, di competenze giuridiche, fiscali, militari, fa sì che deve essere sempre considerata in un ambito più ampio, anche perché si vede benissimo dal reclutamento sociale di questi castellani, che per almeno sino al 400 il reclutamento può essere, a seconda delle situazioni, sia all'interno dell'aristocrazia maggiore o minore, sia invece provenire da lignaggi di dottori in legge e quindi fortemente specializzati nella conoscenza della giustizia e della sua amministrazione. Più si va avanti nel tempo, più uno ha l'impressione che la base di questa nuova elite sociale, che può essere direttamente collegata all'amministrazione, è formata in gran parte da dottori in legge, e che quindi una specializzazione giuridica diventa fondamento essenziale per l'inserimento nell'amministratore e per poi un possibile miglioramento della propria situazione. Se mia conoscenza non c'è né nel Monferrato né nel Patriarcato Pugliese una categoria di iudices che siano gli ordinari amministratori della giustizia pubblica nel territorio. E dobbiamo tenere presente però che le istanze di giustizia e di giurisdizione sono molte. Ci sono fortissime nel Monferrato, ma ci sono anche nell'area pugliese, competenze di giustizia locali che a seconda degli statuti e a seconda dei patti di sottomissione nel caso del Monferrato possono anche comprendere giustizia alta. Nel caso, poi nel corso del tempo, prima il Patriarcato, poi il Monferrato, c'è il Parlamento che ha delle competenze in prima istanza fiscali, ma in prosieguo di tempo ha anche delle competenze giudiziarie, che non sempre chiare. C'è naturalmente la giurisdizione feudale, che è competenza feudale. Quello che una linea di tendenza dei principi, che credo sia abbastanza generale e che imita la struttura imperiale, è quella di affermare il principe come istanza di appello, appellazione. Ecco, questo. Però anche in questo caso, diciamo, proprio questo ricorso diretto diminuisce il peso in questi territori che io conosco degli iudices come categoria. Cioè io non ho la visione che invece in vari territori austriaci e tedeschi dell'importanza delle iudices, di questo organismo per in qualche modo controllare la violenza aristocratica, che è uno dei grossi problemi, non è solo, credo, uno dei grossi problemi. Ecco, dobbiamo però sempre tenere presente, chiedo scusa, approfitto perché la questione è stata sollevata ieri, che quando noi parliamo di diritto e di giustizia in quest'ambito è una molto, molto complesso, molto articolato, cioè le istanze di giustizia sono cospicue, numerosissime, interferenti, è veramente difficile cogliere, ma questo in parte vale anche per i famosi stati cittadini ancora in pieno 300, ecco, e anche per giustizia di sangue, tutto qui. Ma io non conosco, per rispondere alla sua domanda, un ruolo così importante della giurisdizione come funziona il pubblico nei questi territori che io conosco. Non so se. Posso dire brevemente una domanda di informazione. Lei ha parlato a un certo punto, per un'epoca avanzata, di castellanie e di castellani. Reclutamento di castellani, centro di reclutamento, giudici competenti di legge, eccetera. Quindi sono diventati ormai funzionari, magistrati del principe. Domando, queste castellanie che fanno capo allo Stato sono mai state precedentemente signorie di castello, appartenenti proprio a un signore? E sono state come e quando sono diventate castellanie del principe? Allora, in molti casi, io posso rispondere in questo caso specificamente sul VO, perché ne conosco lo sviluppo dal XV fino al 400. Molte delle castellanie sono state prima sede di signorie castellane indipendenti, autonome. Nel corso del 200, da un lato in generale, dall'inizio del 200 cominciano a nascere le prime castellanie con il senso di centro, in qualche modo amministrativo, legato al principe in tutta la Savoia. Quando Pietro di Savoia conquista il Volo, quando ci entra, fa questi, diciamo, si industria a fare in modo che tutta l'aristocrazia locale sia a lui collegata dal punto di vista del vassallatico, e nel giro di una ventina d'anni crea le sue prime castellanie nella regione. le prime non sono castellani che nascono da signorie di castelli indipendenti, di solito sono legate o a piccole comunità, o medie comunità urbane che già avevano qualche funzione di aggregazione territoriale nei secoli precedenti, per esempio in alcune di questi borghi c'era un bisdomo in nostra ecclesia, oppure sono nuove fondazioni sovrane. Nel corso del 300 le castellanie signorie, ex castellanie signorili che entrano a far parte delle castellanie sovrane, entrano soltanto nel momento in cui le famiglie signorili si estinguono o vengono i loro possessi vengono aiutate a estinguersi. Sì, sì, vengono spesso aiutate quindi estinguimenti. Per cui per un po' rimangono una delle del centro del fumo, ma questo vale anche per la Savoia, rimane una forte signoria urbana autonoma ormai collegata praticamente con i Savoia, il cui centro diventa Castellania Sovrana da solo nel 1420, nel momento in cui la famiglia è stata spazzata lì. Per cui non c'è mai un passaggio indolore dalla Castellania, dalla signoria castellana indipendente alla Castellania amministrativa. C'è sempre un... E continuo di questa crisi? Di questa crisi? Molto spesso ho l'impressione che sia collegato all'importanza sempre maggiore dovuta al principe e al principato per i signori locali. Io non sono affatto sicuro che ci sia un momento di crisi profondissima da un punto di vista finanziario, fondiario delle famiglie aristocratiche, però potrebbe anche darsi. Quello che sembra ovvio è che il cominciare a far parte di in senso lato di un'amministrazione principesca diventa un punto fondamentale del prestigio di queste famiglie e che questo comporta un minore interesse spesso di queste stesse famiglie su un centro castellano loro, per cui continuano in cambio entrano a far parte dell'amministrazione e poi ci sono dei casi di spostamento da una regione a un'altra della loro, del loro radicamento. Il mondo di Enzo, insomma, affermandosi il potere di Serrano, di Spinguri, con il radicamento locale è molto simile a grazie, sì, ecco, questo problema adesso si confrontava con Piero Schiera, mi sembra un problema importante perché mi pare che ritorni anche in area tedesca, cioè dove troviamo in concomitanza con l'affermazione della Landesherrschaft una situazione di crisi o di dissoluzione di tanti aggregati signorili, no? È una sorta di concentrazione nelle mani di signori territoriali di più alto livello, quindi non è un fenomeno ovviamente particolare, ma è un fenomeno che tra l'altro trova riscontro per quello che vengo di terza o quarta mano da cose tedesche, è un fenomeno generalissimo questo, no? Di esaurimento di piccole e minori signorie a vantaggio, e questo io non ho mai capito bene perché, no? Ecco, a vantaggio di questi poteri che riescono ad esercitarsi su una scala più ampia. E questo forse sarà un problema che potremo discutere. Io vorrei sviluppare possibilmente le domande appunto apparentemente ingenue finali del professor Violante, cioè perché, che vantaggio c'è? Io anche credo più probabile, probabilmente concorrono, ma così a naso insomma, motivi di crisi diciamo del livello più basso, anche di crisi economica eccetera, con motivi di attrazione da parte del momento più alto, ovviamente concorrono, però io credo che questo secondo motivo sia quello vincente. Allora noi ci chiedevamo anche ieri, oppure parlando, quale fosse quel qualche cosa in più, quel quid che caratterizza la Landesherrschaft come una forma di potere diversa da quello precedente, perché non più materiale, non solo materiale, che cos'è quel di più che c'è? Questi problemi di prestigio, per esempio, questi problemi di entrata, di possibilità di entrare in un circuito largo di comunicazioni, di contatti, sono cose evanescenti, ma sono cose che a mio avviso bisogna reimparare a recuperare alla storia della politica, no? Accanto alla storia delle istituzioni, alla storia sociale o materiale, anche questi motivi di non so come dire, insomma, ecco, non lo so. Però mi pare che sia una traccia importante da seguire, anche perché probabilmente consente di fare confronti ulteriori. Posso fare una glossa? Sì, sì, perché in questo periodo del 200-300 il fatto interessante è che c'è un esito felice per tutti i falliti. Al tempo delle guerre, oltre la guerra tra ghibellini, tra città e città che producono degli esiliati, eccetera, c'è la Curia Pontificia e la Corte Imperiale, dove praticamente molti si rifugiano, dal quale poi ricevono vescovadi, benefici ecclesiastici, eccetera, oppure funzioni amministrative, di giudici, e si crea una specie di giro, diciamo anonimisticamente, internazionale, che prima era sconosciuto. Io l'ho ritrovato questo studiando l'organizzazione ecclesiastica italiana, dei pievi, dei parrocchi, eccetera. E a Pisa, per esempio, abbiamo la famiglia che studia Luzzati, come si chiama, la famiglia Guelfa, che a Pisa attualmente viene sconfitta, ed è nel giro che fanno un'attività a fortuna dalla chiesa di Lucca, per esempio, ricevono vescovati in Sicilia, nella lotta della chiesa contro Pietro II. Si aprono molte prospettive nel campo, anche come nel campo imperiale, che conosco di meno. E questo credo che crea un'atmosfera generalmente diversa e propizia a verificarsi di fenomeni del genere anche in sede locale, per cui la posizione alla corte del principe, mondo locale, largamente locale, è superiore a un potere proprio signorile, radicato localmente negli antichi possessi. Leider wurde der Versuch, das etwas ins Deutsche zu übertragen, worum es im Wesentlichen geht. Es steht die Frage im Raum, was passiert mit den kleineren Herrschaften, die im Rahmen der Ausbildung des Landesfürstentums verschwinden. Wir haben das jeden Landesfürstentums, der Ausgangspunkt war Savoy oder auch Montferrat, innerhalb dieser neuen Territorien gibt es vorher kleinere Herrschaften. Wohin, was passiert mit denen? Warum gehen die unter? Was passiert konkret mit den Leuten, also mit diesen kleinen Herrschaftsträgern? Eine Möglichkeit, die früher bestanden hat, dass die also vertrieben werden oder ausgeschaltet werden, dass sie aber dann das Glück haben, etwa an der Kurie oder auch am Hof des Kaisers neue Aufgaben zu übernehmen, das fällt offenbar im 13. und 14. Jahrhundert weg. Aber was passiert mit den kleinen Herrschaftsträgern, die untergehen im Rahmen der Ausbildung des neuen Landesfürstentums? Und das ist offensichtlich etwas, was auch den Norden betrifft. Auch im nördlichen Alpen gibt es ja das Phänomen, dass kleinere Herrschaften verschwinden, die humanste Form, dass sie aussterben, dass sie vertrieben, weniger human, dass sie vertrieben werden, dass sie aufgekauft werden. Wie funktioniert das? Warum kommt es überhaupt zu dieser Krise der kleinen Herrschaft? Warum geben die auf? Steht dahinter eine allgemeine Entwicklung, die von Professor Skeer etwa angesprochen worden ist, dass einfach im Selbstverständnis der neuen Zeit es nicht mehr möglich ist, gegenüber einem Landesfürsten zu existieren? Denn es ist ja der Landesfürst, der die alleinige Instanz in seinem Territorium repräsentiert. Nicht mehr repräsentiert, sondern er ist der alleinige Instanz. Neben ihm hat kein anderer mehr Platz. Ist das eine allgemeine ideologisch-politische Vorstellung, die dahinter ist? Das wäre eine Erklärungsmöglichkeit. Die würde jetzt so spontan zutreffen für einige Territorien auch nördlich der Alpen. Also zum Beispiel für Österreich und die Schaumberger keinen Platz mehr. Es ist kein Platz mehr für sie. Nicht nur in rein materieller Hinsicht, sondern auch in ideologischer Hinsicht ist kein Platz mehr dafür da. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ich wollte genau zu dieser Frage, das schließt jetzt sehr gut an, zu dieser Frage kurz Stellung nehmen oder auch eine Frage an die Referenten richten. Könnte es nicht sein, dass dahinter ein Legitimationsproblem steht? Dass eben nicht alle Familien, alle adligen Familien in der Lage sind, von ihrer Legitimationsbasis her Landesherrschaft und Fürstentümer zu entwickeln. Und ich denke da für die deutschen Verhältnisse seit langem daran, ob es nicht entscheidend gewesen ist, erstens, dass man zu einem gewissen Kreis führender Familien gehört hat. Das ist in der deutschen Forschung ja immer sehr betont worden in den letzten Jahrzehnten, schon für die fränkische Zeit, aber es spielt sich ja für die späteren Jahrhunderte genau dieselbe Rolle. Aber nicht nur, es ist wohl nicht nur ein sozialer Tatbestand, dass bestimmte Familien die Macht unter sich aufteilen, sondern ich vermute manchmal, dass auch ein ganz rechtlicher Gesichtspunkt eine Rolle spielt, nämlich die förmliche Übernahme von Reichsrechten, von kaiserlichen Befugnissen. Der Fürstentitel als solcher, Princeps, ist ja etwas, was nachher aus den Quellen des römischen Rechts bezogen wird, eigentlich auf den höchsten Macht- und Rechtsträger in einem Staate. Das ist im Prinzip der Kaiser oder in Frankreich der König. Es sind aber auch diejenigen, die anstelle des Kaisers handeln. In der deutschen Geschichtsschreibung hat man das dann immer negativ ausgedrückt, wie gesagt, die usurpieren kaiserliche Rechte oder sie eignen sie sich an, Vorgang der Allodialisierung und so weiter. Sie tun so, als ob es ihre eigenen sind und bauen egoistisch nun ihre eigenen Staaten auf. Man kann das vielleicht auch positiv sehen, in dem Sinne, dass diese Leute, die Rechte, die ihnen vom Kaiser übertragen worden sind, jetzt in den Augen ihrer Untertanen als kaiserliche Rechte, als anstelle des Kaisers, als seinen Vertreter wahrnehmen. Und daraus ergibt sich dann eine Legitimation, neben der kleine Adel oder andere Adel, die müssen gar nicht kleiner sein, nicht? Es gibt ja eigentlich dann nur einen Adel in dieser Zeit, nicht? Der andere edelfreie Geschlechter eben keine Möglichkeit haben, mehr mitzuhalten, wenn sie nicht mit solchen Rechtspositionen bedacht worden sind. Das wäre für die deutschen Verhältnisse noch gründlicher dort zu untersuchen. Bei uns ist es ja so, dass zum Reichsfürstenstand eigentlich der Ficker, ein uraltes Buch, 130 Jahre alt, noch immer die maßgebende Basis für diesen ganzen Fragenkreis ist. Das ist also höchste Zeit, dass das mal völlig neu aufgearbeitet wird. Und meine Frage wäre nur, wäre das für Norditalien denkbar, ein solches Erklärungsmodell? Dass es also diejenigen Dynastien sind, die Fürstentümer bilden, die ursprünglich nahe am Kaisertum stehen und an die Stelle des Kaisers dessen Befugnis übernommen haben. In der Stauferzeit ist dieses System der Belehnung und Regalienverleihung ja hier in Italien viel perfekter als nördlich der Alpen. Ich weiß nicht, ob Sie das kurz vorstellen. Sì, cioè, molto brevemente, se ho capito, è la cosa seguente. La domanda è possibile anche per l'Italia, come secondo Willebrand è possibile, dovrebbe essere possibile per la Germania, che i titolari dei nuovi principati sono coloro i quali stavano già da prima più vicini all'imperatore e quindi sono princeps in quanto non usurpano diritti imperiali ma diventano titolari quasi in proprio esercitando in questo modo una specie di influsso di legittimazione sui sudditi del territorio molto alto che potrebbe appunto provocare il nuovo, diciamo così, rapporto di potere tra questi signori minori esistenti sul territorio e il princeps che emerge in quanto il princeps esercita quasi in proprio questi diritti imperiali. La domanda è se per l'Italia del Nord, per questi principali di cui si è parlato, è possibile immaginare una cosa di questo genere. Però io vorrei precisare che anche per la Germania questo problema è poco studiato perché è appunto il libro più importante risale 130 anni fa e così finisce. 130. Ma io dichiaro subito che ho una certa tendenza, la confesso, a non dico a sminuire, ma a mettere in secondo piano gli elementi di volontà di legittimazione ideologica o di legittimazione formale o anche di entrare in un entourage principesco e a mettere invece in primo piano la situazione dei rapporti di forza. Cioè dire, sono convinto che l'evoluzione politica in linea generale sia stata allora come oggi essenzialmente un problema di rapporti di forza, intendendo rapporti militari, chi picchiava di più, meglio, aveva più armi e così via. Cioè chiedo scusa di questa sorta di petizione di principio, ma mi sembra importante quella che dovrebbe meglio. Cioè penso che nessun signorotto di castello avrebbe mai ceduto un'unghia, no? Un paio di capponi all'anno dei suoi contadini se non ci fosse stata una minaccia di forza o una forza francamente esercitata. E dico questo in questa maniera assiomatica come petizione di principio, anche se naturalmente i problemi ci sono. L'anno prossimo organizzeremo a Trieste un convegno sulle forme della propaganda politica nel 2300. E ci sembra importante riconoscere che la fase della storia è diventata per le corone, i signori, le città, molto importante dare un messaggio politico. Quindi questi problemi ci sono, però io sono convinto che il clou della lotta fra Guelfi e Ghibellini, fra Magnati e Popolani, adesso poi veniamo al problema specifico, non sia mai dipeso dalla forza con cui un messaggio è stato lanciato o è stato introiettato da una delle parti, ma si è diviso dal fatto essenzialmente dal ruolo di forza. Naturalmente, una volta fatto questa dichiarazione, questa sarebbe un'astratta dichiarazione di principio, se poi non l'articolassimo in varie situazioni. E il problema dell'inserimento in un principato. Certamente una famiglia aristocratica di un certo livello, cioè che ha di fronte a sé delle chance di carriera, accoglie, accetta a un certo stato di evoluzione il 200 l'affermazione di un principe territoriale, gli si lega con un rapporto feudale, gli si lega poi con un rapporto funzionariale, capisce che gli conviene di più avere meno capponi all'anno nel suo castello e fare il castellano di un castello sabaudo nella fattispecie e avere tutta una serie di vantaggi economici e di altra natura legati a questo insediamento. Questo però è un meccanismo che si innesca a una certa fase evolutiva e anche per certi strati della nobiltà. Allo stesso modo, per fare un paragone, no? Che nelle decade iniziali del 200 una importante famiglia nobile aristocratica di tradizione militare di una città comunale italiana prende la guida del movimento popolare e combatte i leader della sua città. Non è un traditore del suo campo, è un aristocratico di un certo livello, però, di un certo livello materiale, economico, culturale, che ha di fronte a sé una possibilità, una qualità di scelta. Quanto al problema, sollevato da Sorvino, right, della, diciamo, della maggiore chance nell'ottenere il principato da parte di elite che fossero già in qualche modo legate all'autorità imperiale, credo che questo abbia certamente giocato, ma qui poi vorrei introdurre un elemento di discussione che mi sembra decisivo nella storia dell'aristocrazia. Non dobbiamo dimenticare che la gran parte, tantissime di queste famiglie aristocratiche tra XI e XIII secolo sono famiglie che si estinguono a un certo punto. Vale dire, la continuità genealogica e dinastica che a volte inconsapevolmente assumiamo dietro certe nostre ricostruzioni non è realizzata nei fatti. Non è necessario pensare all'eliminazione fisica, no? Come mi sembra un po' sottintendesse, si sottintendesse a proposito di queste estinzioni di casati della Savoia. Ci sono estinzioni del tuo tipo. La vicenda della Carinzia è clamorosa. C'è un momento in cui sembra che gli Eberstein effettivamente, no? Siano sono una grande potenza. Di fatto c'è una vicissitudine dinastica, per cui vengono meno. Allora a questo punto subentra una nuova dinastia, che non si sa da dove venisse, da lontano, almeno le fonti dicono così. Arrivano questi Spanheim, fondano questo monastero, si candidano e ottengono sulla base di cosa? Di una vicinanza alla corona che però è creata, è costruita, non ha un ascendente, mi pare, di quale moto. Cioè anche nel caso di queste dinastie germaniche, nel caso di Spagna, la dinastia del nord della Germania, quanto ne sappiamo, ha giocato un'evoluzione di fatto congiunta a un'opportunità politica che in quel caso è stata data dalla situazione, no, dei rapporti tra Chiesa e Impero, anche nel loro caso, sempre, ecco. Allora, in altre parole, voglio dire, certamente ci sono questi elementi di legittimazione, questi elementi, no, ideologici che sono molto importanti e anche questi elementi di opportunità di entrare di volta in volta in un entourage principesco o di candidanza principale e così via. Penso però che se vogliamo capire dobbiamo sempre ricondurre da una serie di situazioni di fatto, in parte strutturali, in parte legate al caso che domina la storia. Chiedo scusa di questo, perché a un certo punto se nessuno ammazzava Filippo II di Svevia, alcune cose andavano diversamente, c'è da fare. Chiedo scusa di questo finale un poco strutturalista, ma nel quale molto credo. In Italia il prestigio della monarchia in questi secoli certamente non è grande. Più che il prestigio, il favore della monarchia è l'opposizione alla monarchia che funziona a livello ideologico. Faccio un esempio molto concreto. Maggiore esempio, cosa fare? La famiglia di Enrico Canossiani, il marchese Canossa, Matilde, che poi organizza una grande signoria, un principato territoriale che non diventa niente di simile a un land tedesco, anche per il fatto che Maria muore senza eredi. Ma Maria si pone alla testa del partito gregoriano partito romano, nelle riforme ecclesiastiche, nella lotta per le investiture, ma c'è di più, nella Vita Matildis, scritta subito, contemporaneamente agli ultimi anni dal monaco Guarnizione, Matilde è presentata non tanto come l'antire, ma come il principe, il re in potenza. Tant'è vero poi, negli ultimi tempi, e questo non è ancora ben accertato, ma pare che abbia un certo vicariato da parte di Ricoparto, e infatti cambiò un po' politica, fu meno ostile Ricoparto. Quindi, ma indubbiamente nella Vita Matildis c'è disegnata molto accuratamente un'ideologia di quasi di monarca contro il monarca imperiale, con piena coscienza. Questo è stato bene messo in rilievo, illustrato da Mario Nobili, e questo è un caso del suo posto, del suo mezzo piano. Dafür gibt man ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Professor Camarosano hat darauf hingewiesen, dass aus seiner Meinung weniger die Ideologie, die politische Ideologie eine Rolle spielt, sondern sehr viel mehr Gewalt, militärische Mittel zum Aufbau eines Landesfürstentums beitragen. Das ist also eine Gefahr, die nach seiner Meinung nach nicht ganz auf den richtigen Weg führt, wenn man versucht, das vor allem ideologisch zu erklären. Und es kommt noch dazu, dass auch der Zufall natürlich eine große Rolle spielt. Also wenig von Strukturen und weniger von Ideologie, sondern es ist eine Realität des Lebens, die sicherlich auch sehr viel beigetragen hat zur Ausbildung des Landesfürstentums. Warum solche Herrschaften ihre Positionen aufgeben, das kann durchaus nachvollziehbare Gründe haben, wenn ein kleinerer Herr einsieht, gegenüber dem mächtigen, künftigen Herrn die kürzeren zu ziehen, dass es ihm vielleicht möglich ist, als Kastellan im Dienste des Landesfürsten mehr materieller Basis zu gewinnen als als kleiner Herr, dann ist es eigentlich nachvollziehbar, dass er sich in den Dienst dieses großen oder größeren Landesfürsten einordnet, ohne dass er dabei etwas macht, was nicht nachvollziehbar wäre. Professor Gerante hat darauf hingewiesen, dass dieser Bezug auf Bereichsgewalt, wie von Professor Hüderwein angesprochen worden ist, für Italien vielleicht nicht in diesem Maße zutrifft, dass also die Ideologie, man bezieht seine Macht, seine Befugnisse vom Reich in Italien nicht so hoch zu werten ist. Er hat das Beispiel die Matilde von Duszien genannt, in deren zeitgenössischer Lebensbeschreibung die Dame quasi als Monarchin dargestellt ist. Es ist nicht der Kaiser sozusagen, sondern der verblasst völlig. Es ist die Matilde, die quasi die höchste Autorität darstellt. Und es ist in keiner Weise notwendig, hier sich auf den Kaiser oder auf das Reich zu beziehen. Das wäre ein frühes Beispiel dafür, dass eben das Reich nicht oberste Legitimationsebene darstellen muss für die Ausbildung des Landesfürstentums. Ich habe zwei Probleme, die ich gerne hier erörtert hätte. Das erste Problem ist genau in der Linie, die zuletzt besprochen worden ist. Auch dort, wo sich in Deutschland große Flächenstaaten herausbilden, bleiben immer einige kleine oder gelegentlich einige kleine Herrschaften über, die nicht integriert werden. Das ist für Bayern beispielsweise die Grafschaft Ortenburg, aber dazu müssen dann die Bayern mehr sagen. Ich werde nun, wenn die Zeit es noch bringt, zu Ihnen sprechen über die Entstehung der großen ostdeutschen geschlossenen Territorialstaaten. Aber so ganz geschlossen sind die eben auch nicht gewesen. Es bleibt in dem großen Markgraftum Brandenburg eine kleine Herrschaft übrig. Als die Askanier, das erste brandenburgische Geschlecht, das Land besetzt hat, bilden sich einige kleinere Herrschaften im Norden, die zu einem großen Teil wieder verschwinden. Wir wissen gar nicht oft so ganz genau warum, aber sie sind dann weg. Aber eine bleibt übrig. Sie bleibt übrig, die Herrschaft Rupin, bis sie 1524, glaube ich, ausstirbt, also im 16. Jahrhundert. Sie nimmt also das freundliche Ende, von dem Sie gesprochen haben, von Herrn Willowreis. Viel interessanter ist es noch in den sächsischen Raum. Der sächsische Raum bildet sich ja anders, als man es sich vorstellt, nicht von West nach Ost, sondern von Ost nach West, wenn ich mal so sagen kann. Indem zunächst die Landesherrschaft der Wettiner von der Elbe an rückwärts wieder sich bewegt und hier vor allen Dingen das Reichsland, das Pleißenland, in Besitz nimmt. Es ist dies eine kaiserliche Landesschöpfung, eine Landesherrschaft sozusagen, die der Kaiser im 12. Jahrhundert sich direkt noch einmal aufbaut. Das bricht dann zusammen, als das Interregnum jegliche Bedeutung der Kaiser hier beseitigt. Aber dies nun wieder sozusagen unter eine neue Landesherrschaft zu bringen, ist ein jahrhundertelanges Werk, das hier das Haus Wettin, das sächsische Haus, das meißnische Haus, vollbringt. Es dauert Jahrhunderte. Es beginnt unmittelbar im Interregnum, nicht wahr, dass die eine oder die andere Herrschaft beseitigt wird. Es ist dann das ganze 14. Jahrhundert, das 15. Jahrhundert bis in das 16. Jahrhundert ein offener, ein nicht abgeschlossener Prozess. Die Mittel sind friedliche, es ist das Aussterben von Familien, es ist Kauf, es ist Tausch, es ist Verpfändung, es ist Eheschluss, es ist Erbe, es ist alles Mögliche. Allmählich bekommen sie das. Aber ein Land kann sich ebenso halb halten, selbstständig halten. Halb. Das sind die Herren von Schönburg. Sie sind auch ein Teil dieses übrig gebliebenen Reichslandes, das dann sozusagen zu einer eigenen Herrschaft wird. Der Kaiser ist fern, aber sie erreichen eben ihre Erhaltung dadurch, dass sie sich einem sehr mächtigen anderen Landesherrn sozusagen als Afterlebensträger unterstellen. Wie man das nun ins Italienische übersetzt, ein Reichs-Afterlehen, ein mediates Reichslehensverhältnis oder so. Sie halten sich, indem sie sich an Kaiser Karl IV. Als König von Böhmen, es gibt ja alles an der böhmischen Grenze, ihm unterwerfen und damit sozusagen einen zusätzlichen kaiserlichen Schutz gewinnen, aber über das Landeslebensverhältnis eben von Böhmen aus. Also eine ganz komplizierte Angelegenheit. Und damit retten sie ihre Unabhängigkeit. Also im Falle des Hauses Rupin in Brandenburg sind es einfach wahrscheinlich machtpolitische Dinge gewesen. Die Rupiner mischen auch immer noch wieder mit auf allen Seiten der brandenburgischen Politik. Für den Herrscher, gegen den Herrscher. Während es beim Hause Schönburg also eine Frage des Reichsrechts ist, des Reichs-Afterlehnsrechts. Vielleicht hilft mir jemand beim Übersetzen. Aber meine zweite Frage bezog sich nun auf die Vorträge über den Alpenraum. Wenn ich die mitteldeutschen Territorien ihrer Entstehung behandle, muss ich unbedingt eingehen auf die Frage, wie verhalten sich die Deutschen und die Slawen miteinander? Die Slawen, die slawischen Völker, die dort also zunächst militärisch besiegt werden und von denen sich dann aber politisch, nicht kulturell, aber politisch gar nichts mehr hält. Sie sind schnell, sehr schnell, wie mit einer Dampfwalze unterworfen worden. Meine Frage ist nun, im Alpenraum existieren ja auch sehr interessante ethnologische Verhältnisse, sehr interessante Sprachenverhältnisse und ethnologische. Prägen sich diese ethnologischen und sprachlichen Verhältnisse irgendwie noch in den politischen Formen des 13. und 14. Jahrhunderts aus oder nicht? Denn gerade wenn Sie davon sprechen, dass eben kleine Herrschaften von Savoyen und anderen erobert worden sind, stellt sich ja die Frage, ob das irgendwelche Reste sind. Vielleicht geben Sie jetzt die Antwort, die Frage ist so dumm. Aber für das Gebiet, in dem ich, also über das ich arbeite und über das ich vortragen werde, ist das eine wichtige Frage. Hier verschwinden die Wenden, die Slawen, die Sorben im Grunde ganz. Es erhalten sich einige kulturelle Refugien, einige Ecken, in denen sie noch leben, bis zum heutigen Tag noch vorhanden sind, mitten in Deutschland. Aber sie haben politisch keine eigenen Rechte mehr und werden schnell integriert, die führenden Familien ordnen sie schnell ein und so verschwinden sie. Wie aber ist es in der konsolidierteren Welt, friedlich sicheren Geld in den Alpen? Oder ist die auch so kriegerisch? Grosso modo, credo di aver capito molto grosso modo le due domande, cioè, no, la prima questione è la questione di queste, chiamiamole enclave, no? Diciamo di dominio nobiliare, insomma, perché sono essenzialmente nobiliare, no? In territori, in grandi territori come il Brandeburgo, la Sassonia, che peraltro sono stati, cioè la permanenza, no, di questa maniera. Il fatto se esse derivino da un'antica eredità imperiale, salvo poi una riconcessione feudale in certi casi, come la Boemia, agli altri. Insomma. Non so se grossissimo modo ho capito solo questo. Non è una questo, domanda. Però, voglio adesso fare delle progettazioni importanti, cioè le enclave territoriali sono un fatto sempre importante e significativo, e sono un fatto anche molto presente, io ne ho parlato per brevità, anche in questi territori orientali, perché proprio perché questi territori erano in gran parte creazione di un'iniziativa imperiale, così questi territori unitari sono stati costellati da enclave che nel caso di questo dominio alpino per lo più hanno una origine nell'istituzione della immunità, che è di particolare importanza in queste aree ecclesiastiche. Però questo non è il caso degli esempi fatti da lei, comunque ci sono sempre molto interessanti. La seconda domanda era, mi pare, sul ruolo che ha avuto presenza slava, i correnti migratori slave in quest'arco e in quest'arco alpino. A mia conoscenza, il problema di relazioni latino-germaniche slave, cioè di persone che parlavano lingue differenti e avevano differenti consuetudini in tanti campi, non mi pare che sia stato un elemento determinante nelle costruzioni politiche della comunità. È un problema per noi, ma non era un problema per loro. Non mi pare. Cioè siamo noi che poniamo questa questione. Naturalmente i problemi si ponevano, nel senso che si capisce, ci sono dei territori signorili nei quali i contadini slavi parlano la pubblica in certe feste e gli altri in certe altre. C'era una miriade di consuetudini diverse, ma senza pensare a dei processi di integrazione etnica, che in parte sono stati e in parte no, non mi pare che in nessun punto le frontiere medievali siano state determinate da questi problemi. E una nuova conoscenza di tensioni determinate da problemi etnici paragonabili a quelli dei quali invece sappiamo per l'alto medioevo, cioè nel tempo delle prime grandi ondate di colonizzazione slava e dei problemi che hanno posto ad esempio nell'Istria, poi in altre zone, però anche lì non è tanto un problema di natura etnico-linguistica. I problemi diciamo, del nono secolo, no? Le famose questioni della contestazione da parte delle città istriane, dell'insediamento slavo, era il problema che venivano delle persone che slavi o no, certo erano slavi, li chiamavano slavi, va bene? Venivano comunque queste terre che avevano questi cittadini di queste città. Allora lì c'è una tensione dovuta a questo, ma anche lì ho molti dubbi. Comunque si capisce che nell'età medievale noi abbiamo, no, tante notizie di tensioni latino-germaniche, germanico-slave e così via, tensioni che anche poi indotte da questo gioco a tre, no? La grande concorrenza latino-germanica con l'evangelizzazione di slavi, questa cosa che abbiamo. mi pare che questi sono problemi che hanno una storia molto importante, molto interessante in tutte le altre medievali. Al momento della costruzione di queste mie territoriali, grosso modo XI, grosso modo XIV secolo, io francamente non ho documenti, ma ne ho visti pochi, diciamo che mi confortano l'idea di frontiere in qualche modo condizionate da queste presenze. Ecco, tutto qui. Questa è la mia impressione, ma Riedmann e altri ne sanno più. Ich kann nur unterstreichen und Ausführungen von Kamera sagen, dass die ethnische oder besser gesagt sprachliche Verschiedenheit in diesem Raum, die ohne Zweifel bestanden hat, gerade im östlichen Bereich des Alpenbogens, hat es sicher Slawen, Romanen und Deutsche nebeneinander, untereinander gegeben, dass diese Verschiedenheit kaum Spuren hinterlässt in den mittelalterlichen Quellen. Der einzige Hinweis ist die Existenz von Namen. Das sind die Bezeichnung auf einer Rundaslavonika der Indies, also slawische Rufen, die im 11. 12. Jahrhundert noch genannt werden. Aber dass es zu einem Dissens kommt, ist kaum noch mal zu spüren. Man liest manchmal von einem Dolomatius, von einem Dolmetscher, den man braucht, oder es kommt zu Missverständnissen, wenn ein Deutsch-Tiroler Adliger zu Beginn des 14. Jahrhunderts im Krieg vom Bischof Lenin empfangen wurde und nicht Italienisch kann. Dann kommt es zu Missverständnissen. Aber nicht, dass es zu Auseinandersetzungen gekommen wäre. Ich kenne aus der Tirolgeschichte keine einzige Quelle zu Beginn des 14. Jahrhunderts, wo einmal anklingt, unter den Ladini ist es uns besser gegangen als unter den Deutschen. Das ist aber wirklich ein Kuriosum. Und sonst existiert das Problem offenbar nicht. Das finden wir dieses Problem, aber im hohen Mittelalter offenbar nicht. Schwierig zu entscheiden, aber auch nicht einzig ist die Frage, ob diese Verschiedenheit in der Herrschaftsstruktur irgendwie sicher spielt. Ich will auf Anhieb sagen, ich sehe nichts, dass hier verschiedene Herrschaften ausgeübt worden wären. Also ich glaube, das ist wirklich das interessante Faktum, die verschiedenen Nationalitäten, im Gegensatz, den wir heute als unsere Erfahrung erwarten, die sind damals nicht existent. Eine andere Frage im Zusammenhang mit Herrn Überbein, wenn Sie darauf oder darüber spekulieren, dass diese Landeshoheit von Geschlechtern wahrgenommen wird, die sich durch besondere Königsnähe auszeichnen, wenn man das durchspielt am Beispiel der Görzer und der Tiroler, dann gibt es gewisse Vorbehalte. Denn sowohl die Grafen von Görz wie auch die Grafen von Tirol zeichnen sich nicht, zumindest nicht primär, dadurch aus, dass sie ihre Lehen etwa direkt vom Kaiser in Empfang genommen hätten. Sie besitzen auch keine Regalien direkt vom Kaiser, sondern nur indirekt, dass sie Grafschaftsrechte, die an die Bischöfe übertragen worden sind, selbst sich wieder usurpieren oder Regalen von Bischof übertragen halten. Aber es ist nicht so, dass sie einen wirklich direkten Draht zum Reichsoberhaupt gehabt hätten. Es ist kennzeichnend, dass etwa weder die Grafschaft Görz noch die Grafschaft Tirol ein Reichsdehen ist. Erst am Ende des 14. Jahrhunderts wird Tirol als Grafschaft vom Reich an den Grafen von Tirol übertragen. Bis dorthin ist man offenbar ein bisschen rechtsfreien Raum und 1300 überträgt man die Zölle, den Grafen von Tirol, das sind also Regalien. Und vor 1300 kann man zwar nachweisen, dass es sehr oft persönlich gute Beziehungen zwischen den Grafen von Tirol und den Reichshoheiten geherrscht hat, aber nicht auf einer, wie man sagen, verfassungsmäßigen Basis. Die verfassungsrechtlichen Möglichkeiten sind offenbar erst nach dem Entstehen des Landes in Ordnung gebracht worden, mit 100 Jahren Verspätung fast. Erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts wird man in Tirol belegt. Wie es nun Görz ist, ob ein Görzer Graf seine Lehen aus der Hand des Königs überhaupt einmal in Empfang genommen hat, das wüsste ich nicht, ob da also direkte Bezüge stattgefunden haben. Darf ich eine Informationsfrage stellen an Sie, Herr Liedinger? Wie ist es mit der Reichsmatrikel vom späten 15. Jahrhundert an? Für diese Länder. Das ist dafür die Grafen von Rom zu sein einfach, weil die Grafen von Rom die Herzog von Österreich sind und nicht in der Reichsmatrikel nicht drin. Und seit der Zeit Maximilian sind sie angeführt, die Grafschaft von Tirol. Aber da ist eben der Graf von Tirol drin, also der Habsburger drin. Und die gehören so sein, meines Wissens nicht in der Reichsmatrikel. Während ja die Bischöfe schon drinnen sind. Bischöfe von Trier und von Dresden. Nur direkt informatorisch sozusagen zu der Frage von Professor Klein. Also im 15. Jahrhundert ja Tirol recht lange unter einem selbstständigen Habsburger Regenten gestanden ist, steht der separat auch in der Reichsmatrikel drin. Was der Professor Riedmann für Tirol angesprochen hat, ist wahrscheinlich gerade diese Umwegbildung macht das also zu einem nicht typischen Fall, dass die Grafen über die Usurpation, wenn man mal negativ sagen will, der bischöflichen Rechte, denen hat der Kaiser ja eigentlich übertragen, die Sorge für die Brennerstraße, ans Ruder kommen. Es wäre am Gegenbeispiel Bayern oder am Gegenbeispiel Württemberg fürs 15. Jahrhundert zu zeigen, dass es bei einem direkten Weg, also in die Richtung geht, wie Professor Willowey. Ich möchte zu diesem Fragenkreis auch noch einmal kurz Stellung nehmen. Also ich möchte nicht so missverstanden werden, dass ich an eine schematische, an einen Automatismus glaube, dass mit dem Reichsrecht landesfürstliche Gewalt entsteht. Das glaube ich auch nicht. Und natürlich spielt der Faktor der realen Macht eine ganz große Rolle. Also es gibt auch nördlich der Alpen völlig bedeutungslose Reichslehensträger, nicht? Also die nie die Landesfürsten geworden sind, das ist ganz klar. Nur, und vielleicht noch zu dem letzten, zu den Grafschaften, es ist ja so, es gibt dann im 14., 15. Jahrhundert in Deutschland eine ganze Reihe von Grafschaften, die zu Fürstentümern erhoben werden, und die tragen dann ihr Allodialgut auf das Reich auf und erhalten es als Lehen zurück. Und da, meine ich, spiegelt sich ein theoretisches Verständnis der Reichsverfassung schon wieder. Das ist ganz durchreflektiert und es ist offenbar sehr attraktiv für einen Grafen, diesen Aufstieg mitzumachen. Er ist mit seiner, insofern stimme ich da auch den bisherigen Ausführungen von Herrn Camusano ganz zu, der ist als Machtfaktor schon da, nicht? Aber dennoch möchte ich, da wir ja vergleichen wollen, vielleicht auch Folgendes sagen. Also für die Verhältnisse nördlich der Alpen kann man das Verhältnis zum Kaiser selten ganz vernachlässigen. Also es gibt einige Territorialherren, die irgendwie ganz am Rande sind und die ganz außerhalb der Beziehungen zum Kaiser stehen. Aber das ist doch untypisch. Alle bedeutenderen Landesherren stehen in einem nahen Verhältnis, in einer gewissen Nähe zum Kaiser und das ist eben oft auch formalisiert in der Weise, dass sie Reichsrechte haben. Nun ist das in Italien nun völlig anders? Fragezeichen. Also unsere gewissermaßen Basisbildung für italienische Verfassungsgeschichte ist ja bisher gewesen, jetzt ist es nicht mehr so notwendig, war immer Jakob Burckhardt. Und wenn man Jakob Burckhardt liest, dann glaubt man, in Italien hat nur die reale Gewalt und Macht beherrscht. Und was anderes gibt es dort gar nicht. Der Mächtige hat sich durchgesetzt und der Schwächere ist unterlegen. Das ist so als eine Machtgeschichte, da ist Verfassungsgeschichte in Anführungszeichen Italiens als Machtgeschichte geschildert. So extrem, so kann es gar nicht gewesen sein. Und ich habe daran jetzt ein bisschen denken müssen, wie Sie, Herr Camusano, diesen Faktor Macht betont haben. Es kann ja wirklich sein, dass dies in Italien eine größere Rolle gespielt hat als nördlich der Alpen. Nur kann ich mir nicht vorstellen, dass im Konkurrenzkampf rechtliche Argumente gar keine Rolle spielen. Nicht? Man bedient sich ja auch heute immer im internationalen Konflikt rechtlicher Argumente. Ob die begründet sind oder nicht, ist eine ganz andere Frage. aber man versucht doch zu zeigen, dass man nicht nur Gewalt und Macht ausübt, sondern dass man einen Grund hat, warum man Macht ausüben darf. Deswegen, glaube ich, kann man das Legitimationsproblem also nicht ganz beiseite lassen. Nicht? Das fällt mir sehr schwer für eine Zeit, jedenfalls in Zeiträumen, die wir historisch überschauen, anzunehmen, dass das Legitimationsproblem überhaupt keine Rolle spielt. Das fällt mir schwer. Certamente nella mia esposizione prima io ho semplificato e anche un po' strapazzato l'argomento, ho capito che lei lo voleva in maniera non... Io mi rivolgo solo di questo. Certamente questo problema di legittimazione da tutti i livelli gioca un suo ruolo, questo problema di un'ideologia che sia aderente a quello che è in primo luogo l'aderenza all'impero e poi di volta in volta l'adesione a un principe conosciuto come tale. Questo gioca certamente un ruolo. Faccio un esempio tornando sui Savoia. I Savoia, anche nei momenti, delle fasi in cui oramai erano dei principi assolutamente autonomi, hanno sempre mantenuto rigorosamente il loro, ci hanno sempre tenuto a far vedere che erano vassalli del Sacro Romano Impero. Questo è noto da un vecchio libro di Tabacco che l'ha spiegato molto bene. Però ora non è il mio argomento. Questo problema di legittimazione, questo problema di non affermare sulla base di una semplice forza o di una semplice debolezza una posizione di comando o di disobbedienza, gioca a determinati livelli sociali e in ruoli determinati. I nobili, no? Se da questa categoria, no? Nobili, adel, noi scendiamo, dobbiamo dire francamente, molti nobili, tantissimi, dico, erano poco più che dei banditi di strada. Sempre andavano, saccheggiavano, no? Erano queste. C'erano altri che erano più solidi e inseriti in via esperimenti in un dominio, c'erano i principi, ecco. Gli elementi, diciamo così, ideologici giocano, secondo me, in fasi più decisive e più determinate, in questi alti livelli, in persone che hanno comunque delle chance, delle scelte, delle alternative possibili, tutto qui, questo volevo dire. E in ogni caso, con questo chiudo, fra le tante contrapposizioni e, contro, no, e confronti di Italia e Germania che per lo più non funzionano, sarebbe gravissimo aggiungerne un altro, no, fondato sull'Italia come terra in cui, no, non si sviluppa un'ideologia secondo i rapporti, fondata sui rapporti di forza, e una Germania diversa, questo non esiste minimamente, cioè tutte le strutture politiche italiane grondano in tutte le fasi di un momento. Un'esuberanza di ricerca di legittimazione. Certo, insomma, questo qui, insomma, soltanto che gioca in determinati modi diversi, così. Abbiamo forse ancora un po' di tempo, perché se non si è tornato a parlare di questo, non so se ci sono... Domanda solo di informazioni proprio da parte di un profano. Desiderei, so benissimo che appunto nei prossimi giorni si tratterà dell'area padana, eccetera. Mi servirebbe di esplorare dei riferimenti cronologici su questi sviluppi, anche per connettere quei vari livelli di operazioni di forza, di legittimazione, di propaganda, che sono interconnessi e che risentono di più dell'ambiente circostante, ecco. Cioè cronologicamente, ecco, rispetto alle formazioni territoriali finite della Padania, per esempio, ecco. Questi processi per la Savoia o per anche come si caratterizzano, ecco. Cioè che serie cronologiche possiamo fare per poter inserirli in un processo, in un quadro più generale? Domando proprio da profano. Noi parleremo di processi in contemporanea, cioè non so se... dietro ci potrebbe essere questo quesito dall'esterno, cioè se certi processi si sviluppano prima nelle zone di pianura, per esempio, processi di agglomerazioni di piccole signorie e poi dopo si forma la zona alpina, oppure appunto se c'è una contemporaneità assoluta, oppure se per esempio il problema di vicariati, imperiato dei vicariati papali, per qualità si fa risentire fino alla zona alpina o no, o dove si delimitano le zone di diversa legittimazione in qualche modo. Noi parleremo di processi che hanno un andamento contemporaneo. Per cogliere bene il ritmo cronologico, la periodizzazione anche serrata di questi processi, penso che purtroppo avremmo dovuto prendere le mosse credo dal XII secolo, perché è dall'età grosso modo, perlomeno della pace di Costanza, che forse possiamo cominciare a vedere nettamente degli sviluppi radicalmente differenti. Comunque, se fotografiamo la situazione, che so io, flash 1220, abbiamo nell'area orientale questi compatti domini che si è detto, con in alcuni di essi già un'evoluzione molto compiuta, cioè a quest'epoca già certamente c'era una struttura parlamentare per ceti del patriarcato di Aquileia, come una cosa del genere era documentata più di una generazione prima nel territorio del Vescovo di Treviso. Nel territorio subalpino abbiamo una fase ormai già molto avviata di dominazione sabauda, che però ancora copre solo molto parzialmente l'area piemontese, e nelle città dell'Italia padana abbiamo in pieno l'avvio della costruzione territoriale. Il punto molto importante forse è questo, che se ci interessa i territori, la costruzione dei territori vasti è il primo fenomeno che investe tutti questi processi nel XII secolo. Cioè la prima storia delle città comunali è la storia della loro cosiddetta conquista del... Sì, sì, la domanda era proprio diretta a vedere se c'era la possibilità di coordinate, ecco, questa... Sì, è che dovremmo farla, capisci, a ogni livello cronologico, trovare le scansioni. Io penso che il 220, perché secondo me è un arco in cui molte cose vengono a chiarificazione, però è chiaro che poi c'è una fase cruciale, sono gli anni 1200, grosso modo 65-80, che è il tracollo della potenza sveva in Italia, dove anche c'è un coagularsi di situazioni diverse, però questo e non potremo farlo se non con un minimo di consistenza di discorso. Sì, adesso mi pare che questo fenomeno di crisi, diciamo, per dire crisi di signorie, cioè di questi nuclei di potere signorile, ecco, è un fenomeno che generalizzato, abbiamo cercato anche un po' di ricordare noi il XII, XIII secolo, con ritmi diversi. I protagonisti di questa opera di, diciamo, di disciplinamento in linea lunga, di eliminazione di signorie, sono appunto a seconda delle zone protagonisti diversi, le città e in area padana, se poi risulterà vero, i principati, ecclesiastici o secolari, i principati, questi nuclei più forti che sfociano in Landesherrschaft, per dire, insomma, per vederli dal punto di arrivo. Ecco. Non lo so, mi sembra vorrei certamente non parliamo mai, direi, in questa problematica di principati padani come quelli post-comunali. Questi sono un'altra cosa non confrontabile con la Landesherrschaft, se non per aspetti proprio esteriori, l'organizzazione territoriale. Questi sono, diciamo, proiezioni di storie di città che a un certo punto trovano utile organizzarsi entro strutture monarchiche, ma sono processi di costruzione completamente diversi. All'interno di questo mondo confrontabile, cioè di dinamiche signorili, ecco, non lo so, non so se possiamo dire al professor Villovel che forse anche in Italia, nel caso che dei Marchesi di Monferrato e di Savoia, questo rapporto con l'impero, questa derivazione da un'autorità imperiale, appunto come ricordava prima Camarosano di Savoia, ha avuto insieme ad altri elementi, insomma, probabilmente ha avuto un certo rilievo, insomma, forse non è un caso che nonostante le semplificazioni che vedendo le cose dal dopo, ecco, però ecco, queste sono famiglie che possono vantare questo tipo di rapporto con l'impero. Non so se risponde. C'è un problema che alcune formazioni, ad esempio, queste la signoria di Castello Casa. Per una cronologia, no? È un fenomeno che noi vediamo innescato grosso modo al X secolo, poi va avanti, lo vogliamo molto bene, XI-XII. Quando dai decenni centrali del XII secolo queste cominciano ad essere assorbite dentro dominazioni di altro tipo più ampie, non per questo però cessano queste costruzioni di signori locali. Questo è un punto molto importante. Per tutto il XII secolo, cioè, alcuni di questi fenomeni sono dei fenomeni, come dire, embricciati cronologicamente fra di loro, sono ancora in corso. Le città, quando si affermano, danno un'altra inclinazione al problema, però continuano a svilupparsi. Cioè, la difficoltà della cronologia istituzionale del Medioevo, non solo del Medioevo in particolare, è che dei fenomeni sono ancora in corso e si proseguono quando altri sono già innescati. Idem, diciamo, se vogliamo, per la costruzione dello Stato e della Chiesa, anche per questo, no? 1220, così sarebbe una data grosso modo in cui questo progetto, che è un fenomeno che va in parallelo con la costruzione di articolazioni cittadine di tipo comunale molto evolute che avvengono all'interno dello Stato stesso. Cioè, è questa imbricazione di fenomeni che rende la cronologia delicata, difficile e da cogliere, senza dimenticare che delle forme di dominio signorile, di prerogative di tipo pubblico in tutta Europa, no? Sono rimaste, puoi dire, hanno fatto la rivoluzione tutto sommato per eliminare alcuni aspetti. Ma non soltanto il diritto di volontà, insomma. Cioè, la centralità signorile in Savoia, credo ben in altre cose, anche nel pieno 300 e nel pieno 400 rimane fondamentale. Cioè, per riuscire ad accedere o a rimanere all'interno dell'elite sociale, insomma, si deve possedere una signoria, bisogna essere qualificati, dominus, dei, e quasi automatico, la mancanza per esempio di dinastie, lunghe dinastie di grandi amministratori, è collegata al fatto che se un amministratore è cancelliere di Savoia per 30 anni, suo figlio, l'amministratore è riuscito, se non è di origine nobile, rurale, cosa che invece la volta è davvero, se è di origine cittadina, urbana, il lato trasmettino un po' diverso, è riuscito ad acquisire una signoria, si è trasferito spesso con lui, e suo figlio sarà, avrà, se avrà un posto in amministrazione, avrà un posto molto secondario, sarà soprattutto radicato in quella signoria. Il problema al contempo è che invece per grosse famiglie, per esempio l'esempio più macroscopico per gli Stati Sabati, quello degli Chanoni d'Aosta, famiglie di radici vicecomitali già nel XII secolo, che in realtà fino al 200 mantiene il suo potere in buona metà della valle, poi uccide ai Savoia, ma che rimane il punto di riferimento di tutta l'aristocrazia della valle. Per riuscire a rimanere centrale all'interno della valle, appoggia i Savoia, si inserisce nell'amministrazione sabauda ad altissimi livelli. All'inizio, alla fine del 300, 4 o 5 membri della famiglia sono contemporaneamente castellani o ricoprono altri carichi amministrativi nei luoghi più importanti del dominio sabauda. Ciò non toglie che al momento stesso in cui la loro supremazia locale viene, e questo siamo già alla seconda metà del 400, messa in discussione dal principe, loro si rivolgono tranquillamente al delfino figlio del re di Francia, perché si rendono conto che in quel momento il principe avrebbe dovuto togliere loro uffici e domini, e loro naturalmente rivolgendosi all'esterno e a un potere in quel momento molto più importante, mostrano tutti i limiti della forza aggregatrice del principe, che reintegrare nel giro di 5 anni sia in uffici sia in dominio territoriale. Per cui non è soltanto una questione di centralità della signoria, perché il prestigio è il prestigio del proprietario, prestigio è diventare funzionario, ma questo prestigio di possedere una signoria, e questo va avanti almeno mezza volta fino al 500, ed è forse lo strumento che dà la possibilità del ricambio genealogico e in generale del gruppo dell'elite, perché attraverso l'amministrazione si può arrivare davvero a una signoria locale, e succede sempre più spesso nella seconda metà del 300 che un piccolo nobile o un personaggio di secondo ordine diventa castellano in una regione spesso non la sua e si contenta. Al contempo il possesso di signoria spinge a entrare all'interno dell'amministrazione, quindi è un gioco complessissimo, e fino almeno al 700 questo amministratore che diventa poi il figlio, diventa poi titolare della signoria, in che maniera si parla della signoria? Come funzionario o come funziona il signore in proprio? Come signore in proprio? Allora si crea come fa il certo. Sì. Rimane comunque fondamentale il potere del no? Sì, all'interno però di un processo più generale in cui mi pare di capire che queste cose che avete detto è un fenomeno complessivo di tutte le novità europee, no? Cioè questa, per esempio Wilson, adesso queste cose che ha fatto sulla novità inglese, cioè questa osmosi tra amministrazione e diciamo poteri signorili locali, per cui uno non può essere un grande amministratore, un grande funzionario se non è anche un signore di qualche cosa, e con questa circolazione, per cui i funzionari che fanno fortuna diventano a loro volta, e questo è un processo che, però ecco, la signoria cambia di fisionomia, è la signoria del 15° secolo. Questo è il fatto, cioè all'interno più il fatto patrimoniale di comunità che il fatto di potere, bisogna distinguere le donne, perché anche riguardo agli stati cittadini si sa che inquadrare le signorie rurali è facile, ci riescono tutti i comuni appunto attorno al 1900, ma quanto a spazzarne le basi mondiali e economiche è tutto un altro discorso. Per esempio il caso di Treviso, una città che inquadra perfettamente il distretto, no? E nei primi decenni del XIII secolo, in realtà poi ha sono semplicemente inserite, convergono politicamente sulla città, in parte queste famiglie signorili, ma hanno poi una consistenza di signoria fondiaria e in diversi casi anche di signoria territoriale, poteri di bagno, di castello, molto articolati, che dura anche a lungo, conti di collalto, arrivano alla fine del 700 e avviene questo passo. Quindi anche lì va il discorso che va poi fortemente scalato nelle varie città, e appunto anche il discorso che cercherà di fare. Su questo volevo parlare ieri. Ha fatto una presentazione, chiedo scusa un momento, ma appunto molto importante, sulle modalità di assoggettamento di queste signorie locali da parte delle città. Le città seguono varie vie, ma un punto secondo me va colto. Una delle vie che seguono le città non è tanto quella di assoggettare politicamente questi signori. C'è un'associazione politica generale. Per quanto riguarda le prerogative signorili, molte città compiono questa operazione, le prerogative signorili vengono rispettate, ma ne vengono esonerati tutti coloro che sono cittadini. Vale a dire, viene, diciamo, sottratta alla giurisdizione cittadina, alla giurisdizione la cittadinanza. Questo è il punto. Allora, tutto si gioca sull'intensità del possesso, della proprietà, anzi, da parte dei signori di terra e territorio. Se un signore si ritrova con poche terre e tutte le terre intorno sono proprietà di cittadini, i soldi dei signorini sono poca cosa, c'è un debasement totale della sua signoria. Altrimenti è una cosa diversa. Quello che però è importante è che quando le città agiscono così, spezzano proprio questo carattere territoriale della signoria, che era la caratteristica tipica dell'undicesimo-undicesimo secolo e che la distingue dalla successiva. Cioè, il signore banale dell'undicesimo-undicesimo secolo è signore non soltanto sulle terre di sua proprietà, ma su tutte le terre del territorio. È questo che le città spezzano. Naturalmente l'effetto di questa spezzatura è più o meno forte a seconda dell'intensità del possesso mondiale del signore del territorio stesso o anche dell'intensità del possesso cittadino del territorio stesso. Se un territorio rurale è stato quasi integralmente divenuto proprietà fondiaria dei cittadini e i cittadini sono esenti da ogni signorini, c'è stato un spiazzamento dell'autorità signorile che non passa attraverso una. Ecco questo. Allora, sotto questo profilo è chiaro che il processo, no, dell'area dei Savoia, dove non c'è una città, dunque non è questa la via, no? Ma è un'altra, è diverso dal processo di aree cittadine, e per le aree cittadine è diverso a seconda della perifericità o comunque dell'intensità civile e anche delle diverse politiche cittadine, che sono anche vie non più franche, soggettamente. Tutto qui, scusate. Il professor Camarosano ha fatto un lungo inventario delle possibili, anche delle possibili comunità che interagiscono a questi processi di organizzazione territoriale. Allora io presento per il caso subalpino un esempio che forse merita citare un po' più esplicitamente, e sono i casi dei luoghi di nuova fondazione, Ville Nove. Per il sud del Piemonte, proprio all'inizio del 200, io conosco almeno tre casi, che complicano o anche rallentano processi di riorganizzazione territoriale di portata un po' più larga. Sono i casi di Mondovì, Fossano e Cuneo. Per il 300, Comba ha studiato una zona appena più settentrionale, nel 2009 del Principe. Allora, per giungere un po' di nuova individuazione di specificità di aree, mi chiedevo in quale misura e se c'è un contributo di queste nuove fondazioni che hanno spesso genesi, sviluppi, rapporti con i preesistenti nuclei di potere signorile e esiti molto diversi, allora qual è il contributo di simili luoghi, se c'è, per l'area più orientale o anche per l'altro versante alpino? Di fondazione principessa o di fondazione signorile? Volevo dire che sono, che hanno appunto genesi molto diverse a seconda dei periodi. Allora, se c'è un contributo di questi luoghi con genesi e nascite diverse e diversamente scandite anche per la zona orientale o forse anche per l'altro versante alpino di cui si occupa Castelnuovo. Grazie. Forse non credo. Non ho l'impressione che il fenomeno sia molto consistente nell'area orientale. Sì, aiuto, però. L'ho scritto e allora devo averlo studiato. L'ho anche, devo dire, molto ridimensionato per delle aree per le quali secondo me è stato molto esaltato, per la Toscana, per carità, tutto il rispetto, però si è conto che l'area grosso, il rapporto tra Ville Nuove, no, e diciamo, il tessuto preesistente, francamente non mi pare, cioè, mi sembra che le città si siano molto installate in un tessuto. Però sono ansioso di andare al di là delle Alpi e sentire. Secondo me è un fenomeno, non dico esclusivamente piemontese, però è un fenomeno molto interessante e definito di quell'area, ci avete fatto un convegno. Sì, è fatto il problema dell'individuazione di specifici. E poi naturalmente è un giorno di tale, si capisce chi è qui, certo, si capisce, ma lì ne parleranno gli amici del Mezzogiorno, è certo che l'intervento c'ha da Federico II. O nel creare, o soprattutto nel riaccorpare, nel strutturare gli insediamenti, lì certo ci hanno dato dentro, è fatto bene, ma insomma è un'iniziativa monarchica, è diverso. Passiamo all'area ospite. Die Fragen, die jetzt angesprochen worden ist, scheint für Italien nicht so aktuell zu sein wie für die Gegenwart Italien. Welche Funktion haben bei diesem Prozess die Neugründung von Siedlungen? Ja, Es gibt auch Süditalien neue Siedlungen, aber ich glaube, es ist schon schwierig, das zu ersetzen, wie das bei uns wirklich wäre, mit neuen Städtegründungen. Das sind keine Städte im klassischen Sinn, sondern wieder Franke, also freie Siedlungen. Welche Rolle spielen die? Und lassen Sie uns mal die Kollegen nicht ganz einig, ob das wirklich etwas von Bedeutung ist oder nicht. Im Gegensatz zu den Verhältnissen Nordrhein-Westfalen, wo Städtegründungen und auch Marktgründungen sicher ein Teil der Konsolidierung der landesfürstlichen Position im neuen Land darstellen. Man kann dort neue Städte, das Land abrunden, sichern, man kann Einnahmen erschließen. Das ist sicherlich ein wesentliches Kriterium für, für den Ausbau der Landeshoheit. Da scheinen also Differenzen sich auch abzuzeichnen. Wovon vorher die Rede war, das Verhältnis zwischen der Stadt und Herrschaften außerhalb der Stadt. Wie gelingt es der klassischen italienischen Kommune, Herrschaften außerhalb der Stadt in ihre Abhängigkeit zu bringen? Eine Möglichkeit, die von Camorosano aufgezeigt worden ist, dass man den nominellen Herren dieser Stadt, also den Adeligen, alle seine Prärogative belässt, sie also nicht antastet, aber dafür sorgt, dass die finanzielle Basis dieses Herrn in bestimmten Mitteln entsprechender Art und Weise, dass man etwa alle Bürger, die in seiner Herrschaft sind, exempt macht von seinem Zugriff. Das ist also nur noch der Grund und Boden, über den dieser Herr tatsächlich verfügt, der sein Eigentum ist, der die Basis für die Herrschaft darstellt, und das ist meistens eine sehr kleine Basis nur, sodass also theoretisch der weiter ein Herr ist, eine Herrschaft besitzt, praktisch aber die Stadt alles an sich gezogen hat.